Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dall'OCSE che oggi ha rivisto tutte le stime per l'area euro. Cioè, siamo ancora nel 2012 ma già iniziamo a rivedere le stime per il 2013. Resta, dice l'OCSE, l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, resta l'Europa, o meglio l'area euro, la principale minaccia per la ripresa mondiale. Quindi noi siamo la principale minaccia per la ripresa mondiale. Perché? Perché anche l'anno prossimo, seppur meno che quest'anno, l'area euro chiuderà in negativo, meno 0,1%, quest'anno meno 0,4%. Tagliate le stime anche sull'Italia, e qui ci siamo, nel senso che deve ancora iniziare di nuovo il 2013, ma avevamo appena fatto tempo a commentare le stime su meno 0,5% l'anno prossimo. No, adesso sarà già meno 1 e il 2013 deve ancora iniziare, ripeto, quest'anno meno 2,2%. Dalla debole crescita vi sarà una pressione negativa sul lavoro e sui salari, tant'è che l'OCSE dice c'è il rischio di una nuova manovra dell'Italia nel 2014. Ascolteremo la smentita del ministro all'economia Vittorio Grilli. Scrive subito un ascoltatore: Inizia un'altra pessima puntata. Non lo so se è pessima per i temi, pessima per la conduzione, pessima per le notizie, non lo so, non mi sembra così rosea la situazione, ma tant'è. Parleremo di questo in apertura, ma anche dell'allarme lanciato dal Premier Mario Monti sulla sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale. Una frase molto forte, perché cerchiamo di capire come mai sia uscita questa frase, che è chiaro che lascia tutti abbastanza basiti sentire il Presidente del Consiglio che dice ci sono dubbi sulla potrebbe non essere garantita la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale. Poi parleremo invece dei manager italiani, perché ieri, sempre a proposito di Monti, in 5.000 hanno ascoltato le parole del Premier, si sono riuniti in una nuova federazione, vogliono dare un contributo anche alle ricette per il paese. Quando dico manager non sto parlando di super manager con mega bonus e altissimi stipendi, sto parlando di manager normali con stipendi molto molto più normali, che lavorano in migliaia di imprese di questo paese. Ancora, per quello che riguarda la puntata di oggi, la vicenda dell'Ilva terrà banco nella seconda ora. Sia per quello che sta capitando a Genova, sono in assemblea permanente, a Genova ci sono 1600 dipendenti dell'Ilva, a Novi Ligure 800, Racon Igi 80, a Marghera 120, a Patrica 90. Sono 20.000 le persone coinvolte a livello anche di indotto. Il problema vero, ripeto, già ieri lo avevamo annunciato, non è solo il blocco, che è già un problema enorme, delle attività nella città di Taranto, ma 5.000 dipendenti su 12.000 sono già in ferie forzate, ma anche tutta la filiera di approvvigionamento. Genova è autonoma per 4 giorni. Ora, anche qui cercheremo di... è il principale impianto siderurgico in Europa, giustissimo che la magistratura indaghi, ponga domiciliari o addirittura in carcere chi sospettato di aver commesso un reato. Continuo a chiedermi se non vi fosse un'altra possibilità prima di sequestrare le merci prodotte, anche perché si poteva immaginare qualche intervento di emergenza, soprattutto per bloccare le polveri che poi aleggiano nell'aria. Comunque ne parleremo più avanti, perché chiaramente chi ne sta pagando le conseguenze in primo luogo in questo momento sono i lavoratori dell'Ilva, e questo obiettivamente andrebbe evitato. Il governo ha convocato per giovedì l'incontro con le parti sociali, non vorrei che fosse troppo tardi. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dalla Grecia e dalle borse. Allora, è arrivato ieri in tarda serata un accordo con il Fondo Monetario da parte dei paesi dell'area euro per ridurre il debito di Atene. La decisione formale dovrebbe arrivare il 13 dicembre, dopo che i vari parlamenti si saranno pronunciati. Vengono tagliati gli interessi, ceduti i profitti sulle obbligazioni, vengono insomma chiesti sforzi a tutti i soggetti coinvolti, questo per sbloccare i 43,7 miliardi di euro di aiuti di cui Atene ha bisogno come l'aria. E oggi ha intervistato dalla nostra Valeria De Rosa qui al Sole 24 Ore, dove si teneva l'annual di economia e finanza, il ministro dell'economia Vittorio Grilli ha detto: beh, è un accordo importante perché è stato condiviso da tutti. Penso che questo sia un accordo importante che dovrebbe definire la traiettoria ormai conclusiva della Grecia, e quindi è un accordo dove da una parte la Grecia ha dimostrato di aver fatto passi importantissimi per la sua riforma, dove la collettività degli altri paesi membri hanno messo a disposizione una serie di nuove aiuti formulati con strumenti vari che dovrebbe portare a un impatto di una riduzione del loro debito di circa 20 punti percentuali. Diciamo che alla fine siamo stati tutti d'accordo, è stato più di una nottata, abbiamo avuto diverse nottate sulla Grecia e su altro, però alla fine è stato un accordo conclusivo dove tutti, compreso il Fondo Monetario e tutta la Troica, ha condiviso le decisioni. Dobbiamo tutti essere consapevoli che la riduzione del debito greco è fondamentale nell'interesse di tutti, quindi più che accettare abbiamo trovato una linea comune, degli strumenti attraverso il quale questo sarà raggiunto. Cioè, il fatto che bisogna trovare una soluzione è scontata, ma trovare le soluzioni non è affatto scontato, quindi sicuramente ci è voluto molto lavoro, ma è fatto sempre con spirito cooperativo. Questo per quello che riguarda la Grecia. Poi dicevamo dell'OCSE, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha rivisto a ribasso già tutte le stime per il 2013, e purtroppo l'Italia si becca un'altra recessione dell'1%. Ora, quello che avevamo sempre saputo è che fino a metà del 2013 sarebbe stata dura, cioè economia ancora in recessione, e poi diciamo dal terzo trimestre sarebbe dovuto arrivare un po' di ripresa e quindi un'inversione del segno, non tale da riequilibrare i cali dei primi sei mesi, ma insomma avremmo dovuto chiudere l'anno con un meno 0,5%. Ora l'OCSE ci dice che faremo meno 1, e che vuol dire due cose: o che la frenata dei primi sei mesi sarà più brusca del previsto o più intensa, o che la ripresina da metà anno in poi sarà molto più debole del previsto. Insomma, se peggiora la media sull'anno, delle due l'una. E dice l'OCSE: attenzione, se le previsioni nostre dovessero avverarsi, e sono più pessimistiche di quelle del governo, sarebbe necessaria un'altra manovra finanziaria nel 2014 per restare nel percorso di riduzione del debito tracciato. Il ministro Grilli ha risposto: no, non c'è nessuna esigenza, nessuna manovra allo studio, noi avremo il pareggio di bilancio anche nel 2014. E anche qui è intervenuto a margine dell'annual economia e finanza del Sole 24 Ore. Abbiamo visto che tutta l'economia mondiale, anche europea, in questo momento sono in una fase di rallentamento, lo hanno avuto durante il 2012, noi riteniamo che l'anno prossimo sia un anno di stabilizzazione, poi col secondo semestre l'economia ricomincerà a crescere. Questo non vuol dire che possiamo sederci e non fare nulla, dobbiamo continuare ad impegnarci in questo sentiero di riforma della nostra economia, senza la quale ovviamente i risultati di una più forte crescita non possono essere raccolti. Sull'OCSE è intervenuto anche il premier Mario Monti, che ha detto: l'Italia si sta comportando molto bene sui mercati e il lavoro di questo governo per garantire un percorso credibile e per uscire dalla crisi è già visibile nei bassi tassi di finanziamento. Non sono tante le occasioni per me, per i ministri, per guardare l'oggi con conforto e il domani con grande speranza. Anche per questo mi dispiace, vabbè, non essere stato con voi per l'inaugurazione del centro Rimed a Palermo, ma la Banca d'Italia arriva oggi e ci dice che i redditi delle famiglie italiane sono sempre più stretti dalla crisi. Nel 2012, per il quinto anno consecutivo, flessione del 2,5% del reddito reale. Ne ha parlato il vice direttore della Banca d'Italia Rossi. In affanno anche il credito alle famiglie, con prestiti in calo e erogazioni molto più contenute. E tra l'altro, in base a un'indagine del 2010, quasi 900.000 famiglie erano gravate da un servizio del debito superiore al 30% del loro reddito, quindi con debiti contratti che valevano il 30% in più del loro reddito. E però, mentre le famiglie continuano a perdere potere d'acquisto, meno 2,5% anche nel 2012, poi arriviamo all'ILVA, tanto ne parliamo più avanti. Abbiamo purtroppo anche oggi, torna una rubrica che era qualche giorno che avevamo sospeso, la nostra rubrica sugli sprechi e su come venga male usato delle volte il denaro pubblico. Lo dico ogni volta, il binario è quello: lotta all'evasione, soprattutto quella grossa, e quindi riciclaggio di denaro sporco per la criminalità organizzata, grandi capitali e quant'altro, grandi movimenti finanziari, e con tutti gli strumenti possibili, e riduzione dei costi della macchina pubblica. Su questo il governo Monti è, per essere buoni, troppo timido. Non è possibile che la spending review, quindi la revisione della spesa affidata a una persona brava ed esperta come Enrico Bondi, abbia portato a individuare 400 milioni di euro di tagli su oltre 80 miliardi di spesa. Ora immaginate se una famiglia dovesse comportarsi in questo modo quando deve risparmiare. È inaccettabile, si può tagliare molto di più. Abbassare interregge più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, c'è qualcosa che non torna, più di una, in questo paese, perché al Ministero della Giustizia, e mi riferisco in questo caso ai costi della pubblica amministrazione, al Ministero della Giustizia è arrivato un invito a tornare ai metodi del XIX secolo. Manca solo la piuma d'oca e il calamaio. Perché è arrivata una circolare ai tribunali, io non ci potevo credere, affinché tornino a far trascrivere a mano i verbali di udienza, perché mancano i soldi. Perché chi aveva in appalto il servizio di registrazione e trascrizione, sono stati tagliati i soldi per questi servizi e vengono invitati dal Ministero della Giustizia i tribunali a valutare, tranne nei casi in cui non si può fare la redazione di un verbale in forma integrale manuale, di utilizzare sempre la trascrizione scritta. E da dicembre il servizio potrebbe essere addirittura sospeso, il servizio di registrazione e trascrizione. È interessante che la verbalizzazione manuale, cioè la trascrizione a penna, non è consigliata quando si tratta di udienze penali nei processi con rito direttissimo, con imputati in stato di fermo o detenzione, ovvero nei procedimenti in cui si decide in merito a provvedimenti restrittivi della libertà personale, perché magari un errore calligrafico, un po' come in un certo film che era Brasil, se non ricordo male, può portare a disastri veri e propri. Ma dico, è un paese strano questo, perché da un lato abbiamo un Ministero della Giustizia che non riesce, o che invita a trascrivere manualmente i test delle udienze. Dall'altro invece il Comune di Venezia da 2 anni e mezzo e anche lo Stato italiano paga più di 200.000 euro all'anno per ciascun giudice di pace e operatore amministrativo presente nella sede di San Marco. Il conto è presto fatto. Nel 2012 gli uffici, che sono delle generali, di affitto sono costati 2.371.000 euro più 230.000 euro di spese di riscaldamento e condizionamento, totale 2.600.000. Il problema, e questa è bellissima, è che da quando nel giugno del 2010 i PM della direzione distrettuale antimafia, i loro cancellieri e tutti gli agenti di polizia giudiziaria si sono trasferiti nella nuova sede di Piazzale Roma, a Venezia, gli uffici sono vuoti, quasi completamente svuotati. Ci sono alcuni giapponesi lì con la bandiera e le baionette, rimasti in una sede tanto prestigiosa quanto costosa. Sono 3 giudici di pace, 8 operatori amministrativi e 2 operatori per i decreti penali. È una delle cose che ho imposto di eliminare al più presto, ha detto il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. E poi una buona notizia con cui chiudiamo e passiamo al primo tema, e mi riferisco ai costi della sanità, perché è stato condannato. Io devo dire che è una buona notizia, perché immagino che appunto la sentenza sia corretta. È Alberto Acierno, 6 anni e 6 mesi per peculato, la terza sezione del tribunale presieduta da Vittorio Alcamo lo ha condannato perché lui era l'ex direttore generale della Fondazione Federico II, già guadagnava 180.000 euro l'anno. Ma non solo, la Corte dei Conti lo ha condannato a un maxi risarcimento di 102.000 euro perché con le 2 carte di credito dell'Assemblea regionale giocava al casinò online, acquistava viaggi alle Maldive, faceva shopping in Spagna oppure la spesa al supermercato e si abbonava anche a Sky. Spese ingiustificate, volete un elenco? 17.000 euro per scommesse online, capire, tra febbraio e maggio, tutto con i soldi dei contribuenti, le carte di credito erano della regione. Poi 5.000 euro per l'acquisto di un viaggio alle Maldive, pagamenti in giro per il mondo ai magazzini spagnoli e Corte Inglese, ha speso 2.000 euro nel febbraio 2008, poi gallerie d'arte, boutique. Pensate che fra luglio e agosto del 2008, con gli uffici della Fondazione Federico II chiusi, lui è riuscito a fatturare sulla carta di credito dell'ente 1.000 euro in un negozio di mobili e un negozio a Palermo. E poi ci ha caricato sopra anche il carburante di una barca e 770 euro di conto per un ristorante a Mondello. Adesso noi parliamo della sanità e di Mario Monti, che ha detto non è garantita la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale. Però io dico una cosa. Ora, la prima, ma è possibile? Ma perché il presidente, anzi il direttore generale della Fondazione Federico II deve avere 2 carte di credito dell'Assemblea regionale siciliana? Cioè, perché? Se ha delle spese, fa una nota spese come tutti noi, fattura e poi l'Assemblea gliela rimborserà. Perché deve girare con le carte di credito uno che fa il direttore generale della Fondazione Federico II? Perché? 2 addirittura. Poi te credo che gliele metti in mano. E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, Presidente del Consiglio, adesso parliamo di sanità. Ma è possibile che in questi giorni lei abbia definito quella contro l'evasione fiscale una guerra vera e propria? Va bene, giustissimo. Mo' la sanità non sappiamo se il sistema può reggere nei prossimi anni, che anche questa è un'affermazione, non è garantita la sostenibilità nei prossimi anni. Molto pesante. Io mi aspetto adesso una dichiarazione forte, altrettanto forte, sui costi, gli sprechi della pubblica amministrazione, delle regioni, delle province, si tolga qualche sassolino dalla scarpa, ci faccia capire che lei non, diciamo, sta in qualche modo tutelando la maggioranza che la sostiene in Parlamento, che andrà in larga parte a casa con queste elezioni. Voglio che vi alziate proprio adesso, che andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Eh sì, la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale potrebbe non essere garantita. Cosa faccio? Do un gufo a Monti? Ma non lo so, perché dice Monti, è intervenuto in videoconferenza in occasione della presentazione a Palermo del progetto del nuovo centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Rimed. Ha detto Monti, la crisi ha colpito tutti e il campo medico non è un'eccezione. La sostenibilità futura dei sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro, di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantita se non troveremo nuove modalità di finanziamento per servizi e prestazioni. La posta in palio è altissima. Già nella legge delega, scusate, nella piccola manovra correttiva, la legge di stabilità, ci sono parecchi tagli alla sanità. Comunque, dai, diamo un gufo a Monti, non ne abbiamo mai dato forse. Gufo. Tra l'altro mi chiedo come si faccia a ricostruire un minimo di fiducia in questo paese se iniziamo anche a dire che la sanità potrebbe non essere garantita. Io immagino una famiglia che ascolta con dei bambini o degli anziani, no? Che ragionamenti possa fare? Roberto Turno del Sole 24 Ore, aiutaci tu. Buonasera Roberto. Ciao Sebastiano, a te e ai tuoi ascoltatori. Dici, di Radio tu, 24. Tu scrivi, sai tutto della sanità italiana, sei un pozzo di scienza del Sole 24 Ore. Dici che Monti scherzava, che così una voce da sé fuggita. Te la faccio sentire però perché abbiamo anche la voce originale. La crisi ha colpito tutti, il campo medico non è un'eccezione. Le proiezioni di crescita economica e quelle di invecchiamento della popolazione mostrano che la sostenibilità futura dei sistemi sanitari, incluso il nostro Servizio Sanitario Nazionale, di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di finanziamento e di organizzazione dei servizi e delle prestazioni. Allora, cos'è l'allarme? Siccome ci mancano le notizie negative in questo periodo, mi sembrava importante aprire anche il fronte della sanità. Ha voluto fare un ragionamento generico o qui c'è qualcosa sotto che non dici ci racconta? Dici bene. Guarda, io la leggerei nelle tre chiavi. Un po' di gufo c'è, un po' scopre l'acqua calda e dall'altra parte mette le mani avanti il nostro Presidente del Consiglio. Hai detto bene, perché qui si parla di famiglie, se si parla di carne viva dell'Italia. Vorrei soltanto dire una cosa: tra il 2012 e il 2015 il Servizio Sanitario Pubblico, sul quale per carità c'è tanto da fare sempre, come hai ricordato tu, i costi sopra le righe, gli sprechi, le ruberie, però insomma stiamo parlando di tagli che fino al 2015 valgono poco meno di 35 miliardi di euro. Non è poca roba. Di queste somme qui, 9 miliardi e mezzo sono opera di questo governo che ha dato seguito alle manovre di Tremonti Berlusconi, no? A partire da quella del 2011. E insomma, i tagli ci sono stati. Io credo che poi, perché dico che scopre l'acqua calda? Perché basta vedere le proiezioni fatte dalla ragioneria stessa, quindi l'ex casa di Monti quando aveva gli interim dell'economia, no? E qui si parla naturalmente di un aumento esponenziale, frutto soprattutto dell'aumentata età degli italiani, di qui al 2050 si parla di una spesa pubblica che da un 7% scarso del PIL, il PIL attuale poi bada, quindi sempre più basso, a un 8,4 del 2050-2055. Risultato, come ha recentemente detto Lambrosetti in uno studio molto articolato, è che la spesa sanitaria totale, quindi anche quella Sì. Nel 2050 sarà a 281 miliardi, con la spesa pubblica che sale di 100 miliardi. Per cui dico, c'è naturalmente un aumento e c'è da mettere mano. Perché mettere le mani avanti il Presidente del Consiglio? Perché temo che di qui a breve, forse entro fine anno, ci potrà essere una bella scorbiciata dei cosiddetti LEA, che volgarmente sono dei servizi garantiti. Mm. E quello è un taglio che sarà un po' indolore, non non sarà certo indolore, ah, ecco. No? Tanto più consideriamo cosa, siamo sotto elezioni. Ecco, allora, Roberto, resta con noi ancora qualche minuto, perché tu dici, allora, da un lato gufa, perché io continuo a non capire perché adesso tirare fuori pure il tema del Servizio Sanitario Nazionale, che potrebbe non essere sostenibile nel futuro. Non mi sembra che di depressione ne abbiamo già abbastanza. Poi dici tu dici scopri l'acqua calda, quindi è un gufo bollito alla fine, e poi però metti anche le mani avanti, perché potrebbe arrivare a fine anno o a inizio anno prossimo un taglio delle prestazioni sanitarie garantite. Io faccio solo notare una cosa, poi tu dopo il metodo del GR mi spieghi perché, però che poi la nostra sanità in alcune parti funziona male, in altre parti funziona benissimo, però se prendiamo quanto costa la sanità, quanto pesa la sanità in percentuale al PIL in Italia, è il 9,5%, il dato è quello dell'Ocse, ok? In Germania è l'11,5%, in Francia è l'11,5%, in Spagna e in Gran Bretagna è il 9,5%, quindi noi abbiamo una spesa assolutamente in linea come incidenza sul PIL, anzi minore di quella francese e tedesca. ...17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Roberto Turno, dicevamo, visto che la spesa del nostro sistema sanitario in percentuale al PIL non è superiore alla media europea, anzi, le mani avanti messe da Monti oggi con questa dichiarazione, che comunque secondo me resta un po' una gufata e anche un po' estemporanea, se mi posso permettere di definire così una dichiarazione del Presidente del Consiglio, che il Servizio Sanitario Nazionale nel futuro non è detto che sia sostenibile, anzi un po' più forte la frase, l'abbiamo sentita, è non è garantita, non è garantita la sostenibilità futura. Roberto? Dunque, il 2013, ti faccio notare, sarà un anno... Aspetta, che è arrivata una correzione del Presidente del Consiglio Mario Monti. Ecco. Ah, vedi che qualcuno ci ascolta, scherzo, non ci ascoltano, però è uscita ora l'agenzia. Ha detto Monti, le garanzie di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non vengono meno. Per il futuro è però necessario individuare e rendere operativi modelli innovativi di finanziamento e organizzazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie. Nota di Palazzo Chigi, perché insomma stava montando, no, un discreto can-can su questo. Quindi dice, il sistema è sostenibile ma bisogna riorganizzarlo, che è già diverso. Roberto? Sì, però poi, come dire, non cambia la sostanza di quello che... Il 2013 porterà con sé il taglio più consistente, 8 miliardi, quindi allacciamoci le cinture. Abbiamo detto del taglio del LEA, che sarà un taglio di prestazioni, che è annunciato per fine anno. Poi c'è la partita della riforma dei ticket da fare con la franchigia, la seconda delle partite di reddito e delle fasce di reddito. Ecco, questa cosa vale 2 miliardi in più dal 2014. Al ministro Balduzzi piacerebbe tanto già impostarli ora. Le regioni con i partiti gli stanno dicendo non se ne parla, tu stai calmo, poi ci pensiamo noi. Però c'è questa cosa. Dall'altra parte, dal 2013 parte il taglio degli ospedali, dei posti letto, 7.500 minimo. Saranno sicuramente di più, 1.000 primariati, giusto, non giusto, ciò significa però delle garanzie di assistenza che mancano. La spending, sì, non sempre su questo, però sta facendo i suoi effetti, Bondi, che è commissario straordinario nel Lazio, ha mandato su tutte le furie l'intero pianeta della sanità. Quindi tu figurati ciò che può accadere. Che è quindi questa partita del finanziamento nuovo? Da una parte possono essere questi ticket, no? Si cambia, però si paga di più per reddito. Dall'altra parte, sì, la carta di cui tutti parlano, ma che non è mai stata giocata fino in fondo, è quella dei fondi integrativi. Eccola qua, perché Monti ha appena riparlato in questo istante. Ha detto il Premier non ha messo in questione il finanziamento pubblico del sistema sanitario. Oddio, l'abbiamo sentito però, va bene. Bensì, riferendosi alla sostenibilità futura, ha posto l'interrogativo sull'opportunità di affiancare al finanziamento a carico della fiscalità generale forme di finanziamento integrativo. Hai visto come fondi, che ti dicevo? Fondi privati. Esatto. Perché questa è la carta, perché... se il servizio pubblico con i denari della collettività non ce la fa più, siamo chiari, sì. I fondi integrativi si ripagano i cittadini, non è che ti arrivano gratis. Chiaro, allora, questo, no? Allora, e mentre... poi quanto saranno integrativi e non anche o fino a un certo punto assicurativi? Esatto, allora, mettiamola così, Monti poi ha corretto il tiro. C'è qualcosa che resta però di questa dichiarazione, perché come conferma anche la parziale rettifica, e cioè che il governo sta pensando che per reggere il sistema noi dovremmo iniziare ad avere anche una componente privata nella nostra spesa sanitaria, che vuol dire farsi una polizza assicurativa, cioè inutile che ci giriamo troppo attorno, vuol dire sostanzialmente avere una componente in cui tu metti i soldi tuoi. E dico, non mi sembrava una notizia così, sarei più volentieri arrivato, diciamo, a marzo, cercando di capire cosa può fare la spending review e altre amenità. Hai ragione a ricordare che l'anno prossimo i tagli sulla sanità saranno pesantissimi, anche se sui posti letto i primariati non farei battaglie ideologiche, spesso ci sono ospedali non funzionali. Nel ringraziare Roberto Turno, e avevi raccontato in diretta le correzioni, le rettifiche, le precisazioni di Palazzo Chigi, rispondo anche a un ascoltatore che dice sputati in faccia, complimenti. Difficile sputarsi in faccia, però... Monti era il tuo idolo solo qualche mese fa, lei poi si firma Marta, ma siccome il numero lo vediamo, lei ogni volta si firma come vuole. Guardi che Monti, continuiamo a dirlo, non era il mio idolo, ma semplicemente abbiamo riconosciuto a Monti l'opera che doveva svolgere per prima: mettere in sicurezza i conti dello Stato, fare calare lo spread, e obiettivamente lo spread è calato, e fare riguadagnare a questo paese un po' di credibilità che, se siamo d'accordo, caro ascoltatore, l'Italia aveva decisamente perso l'anno scorso. Da lì in poi, che non vi sia che l'azione di governo sul fronte dello sviluppo, dei tagli alla spesa improduttiva, della semplificazione burocratica, cioè riforma a costo zero, che l'azione di governo si sia fermata, lo diciamo da tempo, e ho anche aggiunto qualche giorno fa che, se è vero, come dice Mario Monti, che siamo in guerra, cioè che questa è una guerra senza armi, allora durante le guerre si fanno le leggi speciali, e quindi si possono fare delle leggi che, per esempio, per la semplificazione burocratica permettano a un cittadino italiano di aprire un capannone, un'attività in 6 mesi come in Spagna e non in 4 anni come la media italiana. Poi le certificazioni le guardiamo dopo. Siamo in guerra? Alla guerra come alla guerra. Non si può continuare ad avere la burocrazia, diciamo, bizantino-borbonica da un lato e sperare di vincere la guerra con la Cina così. Grazie Roberto Turno. Vedo che alcuni dicono già questo è un regalo alle assicurazioni, alle banche, non lo so, non mi sfugge onestamente perché il Premier in un momento così delicato debba parlare anche della necessità di arrivare a una sanità che uno si paga anche con dei fondi integrativi, cioè con delle assicurazioni, non so, ripeto, invece di parlare di tutte queste cose ci vuole raccontare che cosa sta succedendo sulla spending review, sul numero di parlamentari, sui vitalizi, sui costi della pubblica amministrazione, sulle riforme della politica, perché sennò qua continuiamo a introdurre concetti che spaventano anche. Già abbiamo visto che è successo alla sanità greca, vabbè. Vediamo cosa ha raccontato invece Mario Monti ieri a 5.000 manager alla Fiera di Milano, manager che si sono riuniti nella confederazione sindacale che rappresenterà a livello nazionale 800.000 dirigenti. Ripeto, il dirigente non è solo quello che voi immaginate prendere i super bonus, quelli sono i super manager. Hanno stipendi buoni, ma niente di, di trascendentale, e soprattutto ce ne sono 123.000 nelle strutture private, e nel pubblico, pensate, ce ne sono 170.000, ieri appunto riuniti negli Stati Generali del CIDA. Allora, presidente Silvestre Bertolini, buonasera. Buonasera. Voi che rappresentate 800.000 dirigenti, quadri, perché ci sono anche i quadri dentro, giusto? Che sono 437.000 i quadri, quelli che hanno la qualifica di quadro, e nel privato, e 660.000 nel pubblico. Che cosa avete chiesto al Premier Mario Monti, che oggi appunto ha aperto anche il fronte sanità? Ieri eravate in 5.000 alla Fiera di Milano, prego. Esattamente, ieri abbiamo fatto i nostri stati generali con un'affluenza di pubblico, di manager, devo dire che neanch'io mi aspettavo così numerosa. Abbiamo superato 5.000 persone, c'era la sala della conferenza pienissima. Ma cosa gli avete anche chiesto? Cioè, questo è interessante, ma io voglio capire i contenuti. Sì, no, abbiamo chiesto prima di tutto di vedere la CIDA come confederazione dei manager delle alte professionalità, come soggetto sociale e non come un club di dirigenti, nel senso che noi potremmo dare un forte contributo alla crescita del paese, potremmo dare delle buone idee al governo per cercare di migliorare quello che è il processo di sviluppo e di crescita del paese. E devo dire, questo l'ha accettato, l'ha condiviso, e questo è importante per noi. Ecco, che tipo di proposte avete? Alcune me le ricordi, perché voi avete parlato di rivoluzione fiscale, rinnovo dell'amministrazione pubblica, cioè cosa chiedono i manager e i quadri italiani che tutti i giorni poi si confrontano, a maggior ragione se sono nel privato, col mercato del lavoro? Voi avete scoperto che quando un manager o un quadro perde il posto, solo in un caso su due riesce a ritrovare un posto di lavoro simile. Che cosa chiedete? Sì, io vorrei ricordare che noi manager non abbiamo l'articolo, il famoso articolo 18, per cui noi possiamo essere anche estromessi dal nostro lavoro da un giorno all'altro, per cui è tutto basato sull'efficienza, sulla professionalità e sulla fiducia e ovviamente sulla capacità di far crescere l'impresa. Detto questo, noi negli Stati Generali abbiamo dato ad ampio spettro delle proposte che andavano appunto dalla fiscalità alla previdenza al lavoro. Per quanto riguarda la fiscalità, abbiamo fatto delle proposte al Premier, devo dire anche molto innovative. Per esempio, io ho parlato della possibilità di avere una curva di fiscalità che sia progressiva e che sia in funzione dell'età, per cui all'inizio del lavoro i giovani dovrebbero pagare un po' meno, nell'età della maturità si dovrebbe pagare l'aliquota piena e nell'età dell'anzianità avere un calo dell'aliquota, per cui come una parabola, no? Una parabola che consenta, certo, al cittadino di poter vivere anche un po' meglio, ecco, in questo senso. Mi dica una cosa per concludere, sì, ma i suoi associati, visto che voi rappresentate 800.000 manager, e tra l'altro molti di loro si stanno spostando oltre confine, no? Sono raddoppiati i manager italiani che vanno a lavorare fuori, Brasile, ma anche India, Cina, Indonesia, Vietnam, tutta la parte che più si sta sviluppando. Dicevo, che segnali arrivano? Perché oggi l'Ocse ha raffreddato tutti gli entusiasmi sul 2013. La situazione si sta muovendo o è ancora completamente incagliata? Ma la situazione, devo dire, peggiora più che incagliata. Bene, nel senso che in questo momento di crisi noi abbiamo perso circa 10.000 manager dall'inizio dell'anno. Cioè 10.000 manager hanno dall'inizio dell'anno? Dall'inizio dell'anno 10.000 manager hanno perso il lavoro in Italia. Ovviamente questi manager non stanno lì a guardare o aspettare qualcuno che gli dia lavoro. Se c'è l'opportunità all'estero, vanno all'estero. E molti di loro sono andati anche all'estero. Adesso il problema è farli rientrare nei tempi giusti. Io sono assolutamente d'accordo con un'esperienza all'estero. Secondo me ci dovrebbe essere un interscambio culturale tra l'Italia e altri paesi internazionali. Il problema poi è fare rientrare i manager validi, i manager che hanno avuto queste esperienze, e cercare di portare all'interno del nostro paese tutte le esperienze internazionali che hanno fatto. Chiedono gli ascoltatori, poi la saluto. Quante mensilità ha un manager quando viene licenziato? I 10.000 manager di cui lei parlava, di solito? Guardi, di solito un minimo di 12, un massimo di 18. Dipende dall'età, dipende dall'anzianità, questo è il range di mensilità. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso la borsa e poi la vicenda dell'Ilva. Borse, diciamo, oggi poco mosse, l'accordo sulla Grecia c'è stato, poi dovrà essere ratificato dai parlamenti, quindi si va al 13 dicembre almeno, ma debole Wall Street, ma adesso è praticamente invariata. Francoforte ha chiuso con un più 0,55, Parigi invariata, Londra più 0,22, Milano meno 0,26%, Telecom Italia perde il 3,23%, Exor l'1,66%, Mediaset l'1,5%, Prismian meno 1,40, Autogrill meno 1,20, Tods meno 1% come Enel. Fronte opposto, più 2,14% ST Microelectronics, più 1,80 Finmeccanica, più 1,60 A2A, più 1,40 Lottomatica. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, Telecom Italia direi da un lato, Finmeccanica dall'altro. Sì, per quello che riguarda Telecom Italia, oggi meno 3,23%, il titolo ha pagato un pochettino le attese per il CDA del 6 dicembre, che dovrebbe un po' decidere alcuni assetti strategici della società, ma secondo alcune ricostruzioni giornalistiche comparse oggi, in particolare Repubblica, aumenta la probabilità che su tutti i fronti, su tutti i dossier strategici sul tavolo di Telecom, si assista a un nulla di fatto. Ricordiamo che c'è l'ipotesi di dell'ingresso nel capitale della società del magnate egiziano Saviris, che però appunto ha condizionato la sua offerta al fatto che non ci sia lo scorporo della rete, cosa che crea a questo punto ulteriori problemi rispetto allo scetticismo già iniziale dei soci storici di Telecom. E poi c'è anche la questione della vendita di T-Media, la società che contiene le televisioni del gruppo Telecom, quindi della Sette, e anche su questo fronte potrebbe esserci una frenata e un rinvio ai prossimi mesi. Queste indiscrezioni oggi hanno penalizzato il titolo, che appunto ha ceduto oltre il 3%. Per quello che riguarda il fronte opposto, Finmeccanica, secondo indiscrezioni di stampa la società sta ragionando sull'emissione di un bond, ancora non è stata fissata una data, ma comunque hanno iniziato a sondare gli operatori. Si tratterebbe della prima emissione dal 2009 e questo ha portato un po' di attenzione sul titolo, che ha chiuso a più 1,78%. Eni debole, oggi però su Eni ci sono notizie perché ha collocato il 4% della controllata portoghese Galp. Sì, ha collocato il 4% della Galp, questa società portoghese di cui aveva una quota del 28,34%, che scende al 24,34%. L'operazione è vista in chiaroscuro dal mercato perché da un lato è un'operazione positiva che ha consentito alla società di incassare 381 milioni di euro, però questo 4% collocato è inferiore rispetto a quello che aveva annunciato la società, e cioè un 6%, cioè questo gap, questa differenza fra quello che voleva collocare e quello che poi è riuscito effettivamente a fare, che oggi ha penalizzato un po' il titolo, che comunque sul finale si è ripreso e ha chiuso sostanzialmente piatto, più 0,06%. Ancora tra i titoli, A2A, oggi notizia anche per A2A di mercato. Sì, A2A più 1,60%. Ha esercitato l'opzione per la vendita della propria quota azionaria pari al 25,7% in Metroweb. A comprare è stato F2I, che è già la maggioranza della società. È un'operazione che consente di incassare 60 milioni ad A2A e di realizzare una plusvalenza attorno ai 35 milioni di euro. Ancora andiamo su altri titoli per quello che riguarda i titoli in positivo: l'automatica più 1,40, Campari più 0,80, Diasonin più 0,70%. Vorrei concludere per quello che riguarda i mercati anche con i migliori e i peggiori, come sempre facciamo a quest'ora, e citare soprattutto i titoli Eukedos più 24,2 e RCS Media Group sul risparmio più 6,40%. I peggiori invece Antiche Pelletieri meno 7,33%, Rizzoli Corriere della Sera. Sì, per quello che riguarda Rizzoli Corriere della Sera, più 2,36 sulle ordinarie, più 6,42% sul risparmio. Si torna a speculare sul piano industriale a cui sta lavorando il gruppo, che dovrebbe essere varato il 19 dicembre. Ci sono stati nel fine settimana una serie di incontri, i giornali parlano di nuovi appuntamenti in agenda nei prossimi giorni e anche della sostituzione di alcune figure chiave come il direttore finanziario, il direttore risorse umane. Il tema però è sempre quello dell'aumento di capitale, che alcuni soci fuori dal patto, in particolare Rotelli, vorrebbero fino a 700 milioni di euro, mentre i soci storici del patto, quindi Mediobanca, Intesa, Fiat, vorrebbero limitato a 400-420 milioni, con ulteriori risorse magari da ottenere cedendo l'immobile in centro a Milano in via Solferino. Grazie a Guido Morino, Radio Colli, Sole 24 Ore. Dalla borsa, ripeto, oggi poche notizie, ogni tanto ci sta anche, alla vicenda che continua a tenere banco l'Ilva, con novità in continuazione. Dopo che ieri ha annunciato lo stop alla produzione, ha messo in ferie forzate 5.000 dipendenti su 12.000, ha annunciato anche il blocco degli altri stabilimenti del gruppo a Genova, dove ci sono 1.600 persone, a Novi Ligure 800 dipendenti, Racconigi 80 dipendenti, Marghera 120 dipendenti, Patrica 90 dipendenti. Ricordo che con l'indotto, cioè con i fornitori, chi lavora per l'Ilva, stiamo parlando di 20.000 persone. 349-238-6666 per i vostri sms e poi come sempre anche una pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, Domenico Palmiotti, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera gli ascoltatori. Vedo nuove agenzie sull'Ilva, il Presidente del Consiglio Monti e dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano stanno esaminando anche la questione Ilva, si ragiona su un decreto legge e devo dire che altre novità sono arrivate nel frattempo proprio dall'Ilva, le raccontavano in parte i nostri GR dopo che questa mattina vi sono stati altri 5 indagati, anche il sindaco e il sacerdote, l'ex arcivescovo di Taranto Monsignor Benigno Luigi Papa, il sindaco di Taranto Ipazio Stefano, accertamenti della Guardia di Finanza a Bari e a Roma sulla vecchia autorizzazione di impatto ambientale, assemblea permanente invece nei dipendenti Ilva di Genova, le ultime novità. No, una puntualizzazione, è indagato il segretario dell'ex arcivescovo di Taranto. Il segretario, scusami. Marco Gerardo, scusami. Certo. il sindaco di Taranto per un esposto che ha presentato un consigliere comunale del PDL. Beh, questa mattina è stata una mattinata di tensione perché gli operai a cui era stato disattivato il beige per entrare nell'area a freddo dopo il blocco delle attività deciso ieri da Ilva, questa mattina hanno forzato le portinerie e sono entrati in fabbrica, è stata invasa la direzione, sono stati invasi anche gli spazi esterni all'edificio. Poi la situazione si è un po' rasserenata perché l'azienda ha garantito alcune cose. Lo stesso ingegner Buffo, direttore dello stabilimento di Taranto, è sceso a parlare con gli operai e ha garantito che per il momento l'azienda soprassiede alla cassa integrazione. Il problema della crisi di mercato c'è, però in questo momento la situazione è troppo complicata per aggiungerci anche la cassa integrazione, quindi un break temporaneo sulla cassa. Poi questi giorni di inattività ai lavoratori saranno retribuiti, eccetto soltanto lo sciopero di oggi che si chiuderà alle 23. I lavoratori erano stati mandati a casa dall'azienda, i 5.000 dell'area a freddo, in quanto avendo i PM sequestrato tutta la merce in uscita dall'Ilva, l'Ilva di fatto aveva fermato i treni nastri, i treni lamiere, i tubifici, cioè tutti i prodotti finiti che poi vanno sul mercato. Questi lavoratori, anche se rimarranno a casa, anche se rimarranno inattivi, saranno retribuiti dall'azienda perché l'azienda vuole aspettare che si pronunci il riesame, perché l'ordinanza del GIP verrà appellata dall'azienda al tribunale del riesame. E poi in un incontro che c'è stato ancora oggi pomeriggio fra azienda e sindacati, l'azienda ha garantito che quando avvierà la bonifica non ci saranno esuberi perché il personale sarà impegnato nelle operazioni di risanamento degli impianti e quindi e comunque se ci sarà personale in eccesso questo sarà gestito con gli strumenti che la legislazione prevede. Insomma, si cercherà, ha assicurato l'azienda, di rendere il meno traumatico possibile le fermate, lo stop per il risanamento senza che ci siano qui, come dire, ricadute sul personale. Queste tre notizie per il momento hanno un attimo rasserenato la situazione che stamattina si presentava già abbastanza tesa. In verità già da ieri sera, man mano che l'azienda aveva deciso di fermare la produzione, si notava che si andava verso un crescendo di tensione perché i sindacati avevano parlato di rappresaglie. Questa mattina c'è stato anche a Taranto un vertice straordinario per l'ordine pubblico che il prefetto ha allargato anche all'Ilva, ai rappresentanti sindacali, sì, oltre ai rappresentanti di polizia, carabinieri e guardia di finanza. La situazione viene monitorata con molta attenzione, ci sono circa 200 uomini fra polizia, carabinieri e guardia di finanza a presidio degli obiettivi sensibili, certo, della città di Taranto, proprio perché si teme che possano esserci delle manifestazioni, dei disordini, perché sì, c'è un rasserenamento, però è sempre una situazione molto delicata e molto complessa. Allora, dopo il traffico parliamo di questa vicenda con chi oggi ha espresso anche dai nostri microfoni un giudizio molto duro sulla magistratura. Voglio dire una cosa prima di tutto, però è giusto che la magistratura vada avanti con gli arresti, le indagini, quello che deve fare, se ritiene che vi siano state palesi e continuative violazioni della legge. La salute dei cittadini di Taranto in questo caso non è un bene trattabile. Quello che è il punto è, mentre tu persegui chi ritieni aver commesso un reato, si riesce a non mandare per strada i dipendenti dell'Ilva, che è di gran lunga la prima impresa a Taranto ed è la prima acciaieria d'Europa, con tutte le implicazioni che ha questo poi sulla filiera, perché l'Ilva rifornisce il nostro sistema industriale, quindi blocca di conseguenza altre parti del sistema produttivo e esce poi dal mercato, perché tutti i fornitori, tutti quelli che l'Ilva rifornisce, andranno a cercarsi un altro fornitore. Dicevamo dell'Ilva di Taranto, di una vicenda che a molti sembra paradossale e che obiettivamente è una matassa da districare. Vediamo se il governo arriverà a un decreto legge che sarebbe comunque un tappo, un palliativo, ma dicevo, oggi c'è chi si è scagliato, devo dire in maniera anche molto netta, sull'attività della magistratura, e non è una critica che arriva, diciamo, dai vertici o ex vertici dell'Ilva, arriva da un uccellaccio che ogni tanto invitiamo e che vola in maniera rapace sui temi economici di questo paese. Il Professor Giulio Sapelli, mi tocca rinvitarla, buonasera. Buonasera. Ma che mi ha combinato oggi dei nostri microfoni? Perché? Ha detto che, insomma, e non solo dei nostri microfoni, la magistratura, questo è un paese in mano alla magistratura. No, calma. Calma, allora, mi dica. Lei so che fa il giornalista, quindi ha come compito quello di semplificare per la signora Gina. Io ho detto qualcosa di più drammatico e più complesso. Ho detto che siamo tutti fuori squadra, non ho attaccato la magistratura. Ho detto semplicemente che questa questione è la fine di una questione nata anni fa, nata male, con una privatizzazione fatta male, dando questo gruppo a degli imprenditori che naturalmente venivano da un altro settore, perché la siderurgia, come lei sa, è da rottame o da ciclo integrale, questa è un'impresa di altissima qualità e che mai ha avuto grandissimi problemi negli anni che furono, ma li ha avuto solo recentemente. E quindi io poi, quello che ho criticato della magistratura non è affatto l'azione per la difesa della salute, ma è stato il fatto che non si è stato in grado di contemperare, credo per mancate conoscenze tecniche, quello che è il perseguimento di fatti illeciti o di atti lesivi per la salute degli umani, con invece la continuità della produzione, come oggi le tecniche applicate nella siderurgia di tutto il mondo, e la siderurgia italiana ha una tradizione di eccellenza, e l'impianto di Taranto era uno dei migliori al mondo, era possibile fare. Questa era la questione di fondo. Mi dia un esempio concreto. Lei dice, per esempio, c'è un tema molto grosso lì di tutte le polveri che vengono sollevate quando c'è il vento. Da questo non c'è dubbio. Il problema di fondo è che all'inizio ho sentito dire dei magistrati che, per carità, fanno senz'altro il loro dovere, dire che si doveva chiudere l'area a caldo. Chiudere un'area a caldo del cracking, cioè dell'altiforno, ci vuole almeno sei mesi. Meno sei mesi per poter entrare, perché sennò si rimane abbrustoliti. Quando si entra, eventuali prove di qualsiasi deficienza tecnologica non ci sono più, e poi ci va sei mesi per rimetterlo in moto. Mentre chiunque sia stato a Taranto negli ultimi sei o sette anni vede delle cose che un tempo non si vedevano, cioè che ci sono immensi giacimenti di scarti metallici ad alta pericolosità, perché sono polveri sottili, che giacciono abbandonati a tutti i venti di una città di mare. Quella roba lì bastava metterci dei teloni o chiudergli dentro a un capannone, farlo subito, non c'era nessun bisogno di chiudere la fabbrica e grandissimi problemi venivano già risolti. Il problema è questo qui. Naturalmente qui c'è stata una mancanza di integrazione tra tutte le funzioni, ecco, tra gli ordini dello Stato, e naturalmente, se, e questa è la critica che io faccio al magistrato, se un ordine si trasforma in un potere, le cose si complicano, perché adesso vuol dire che si è aperto un grande conflitto istituzionale, e questo mi preoccupa, oltre ai conflitti sociali, alle sofferenze eccetera, e oltre alle sofferenze sulla salute, la sofferenza per la minaccia del posto di lavoro, c'è un problema che vuol dire, lo Stato di diritto è stato, come è fondato, come ci insegnava il grande Montesquieu, sullo spirito della legge e sull'equilibrio dei poteri. Ecco, quindi voglio dire, nulla vieta di consultarsi tra i poteri che si esercitano attraverso degli ordini, tra cui c'è quello dell'ordinamento giurisprudenziale, e questo doveva essere fatto non con colpi di mano di questo tipo che lasciano una città allibita e si divide salute e lavoro. Questa è una cosa, che c'è già una crisi economica terribile, e facciamo una cosa di questo tipo, aizziamo il tormento sociale e anche il conflitto sociale. Ecco, secondo lei, per concludere, Sapelli, però, perché la magistratura non ci ha pensato? Cioè, obiettivamente, se si poteva fare qualcosa, almeno per bloccare, no, la parte più dannosa, o comunque una parte delle polveri più dannose, lei ha avuto la sensazione, ripeto, la magistratura fa bene a intervenire laddove c'è un reato, ma ci mancherebbe, e se la famiglia Riva verrà dimostrata colpevole, è giusto che paghi, non c'è nessun dubbio su questo, stiamo parlando della salute dei cittadini di Taranto e non solo. Però dico, secondo lei c'è stata una non sensibilità su forme alternative? Oggi alcuni giornali dicono la magistratura non capisce quella che è la filiera produttiva di un paese, che se blocchi l'IVA blocchi altre centinaia di imprese qui che dall'IVA si approvvigionano. Dunque, io adesso che cosa passi nell'animo della del magistrato mi guardo bene, anche perché io parto, come lei sa, mi conosce benissimo, io sono un personalista filosofico, per me io parto da un'antropologia positiva, non penso mai che una persona fa delle cose per secondi fini o malafede, lo fa deontologicamente. Devo dire però che prima di prendere una misura di questo tipo, siamo tutti uomini di mondo, no? Ecco, voglio dire, ci si può consultare, si può verificare quali effetti, cioè bisognava, secondo me, e questo però non ricade solo sulla magistratura, che sia chiaro, perché c'è un Ministero dell'Ambiente, c'è un ex direttore del Ministero dell'Ambiente che adesso è il Ministro del Direttore dell'Ambiente, ci sono le unità sanitarie locali che hanno dei compiti di ispezione, cioè c'è tutta una catena che mi pare che si sia ingarbugliata, di cui la magistratura è un anello ed è quello visibile, perché è poi quello che naturalmente implementa la decisione. Ma questo è un esempio di come quell'impresa lì, allocata male nelle privatizzazioni senza liberalizzazioni, stia finendo malissimo. Ecco perché? Perché noi non facciamo da tempo in questo paese. Nessuno svolge mai il suo ruolo fino in fondo, ma invece fa il ruolo di altri. Ecco, questo che voglio. Vedremo come ne uscirà il governo, perché lei fa bene anche a sottolineare che oltre al conflitto tra salute e lavoro, che è un conflitto che non vorremmo mai vedere, perché è più da Dickens e da prima rivoluzione industriale che da paese moderno, adesso si sta aprendo anche un conflitto tra poteri, perché vorrei capire il decreto del governo quanto andrà in contrasto con l'azione della magistratura. Staremo a vedere. Grazie a Giulio Sapelli. Adesso è tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.